Rockway, l'onda del rock. L'onda del rock con una grande puntata di anteprima Rockwave, dopo aver ascoltato Cristina Donà che ci ha parlato del suo album. Andiamo questa volta da un altro super ospite, vero Maurizio? Sì, buonasera Massimo. Buonasera, come state? Bene, te bene, come stai? Grazie. Bene, bene, bene. Un po' cotto però, sto bene. Sei un po' cotto? Sì. L'album è uscito da qualche giorno, il 1° novembre è uscito, un album quindi recentissimo. E non possiamo, io non posso definirlo un album di cover, è un album in cui parli delle stagioni, dei nostri miti, dei miti miei, dei miti tuoi, cioè dei musicisti che abbiamo amato tutti quanti praticamente. Ma in effetti secondo me è riduttivo parlare di un disco di cover. No, assolutamente. È un ribaltamento, un riarrangiamento di grandi classici di cui siamo appunto figli, e quindi l'idea era di rileggere queste canzoni con le mie chiavi musicali, e questo è quello che abbiamo fatto. Ovviamente molte di quelle canzoni mi riportano indietro e ci riportano indietro a quando anche ero ragazzo, suonavo quelle canzoni sulle strade, in giro, ma e sto un po' a ritornare all'origine e fare anche un omaggio a questi artisti, a queste cose di cui siamo figli. Dentro ci sono anche due canzoni mie inedite, rifacimenti inglesi di due pezzi da Dolce Resistenza, e l'album parte da quella che è la canzone che quando ero ragazzino mi ha costretto a ad imparare. Esatto, che è Blowing in the Wind, che è una canzone celeberrima, fatta in mille modi, ma che io ho provato a rileggere in maniera ovviamente totalmente diversa rispetto ai modi che sono più conosciuti. L'hai riletta, sì, hai riletto i pezzi diversi con tanta grinta, ma con tanto amore anche, Massimo, secondo me. Sì, e quello è importante. Sì, c'è molto amore, c'è molta forza, c'è molta poesia, sai che sono le mie armi certo. migliori e soprattutto io uso spesso il termine che si usava tanti anni fa, cioè quando si facevano i dischi Sangue, Sudore, Lacrime, diceva, e questo è che è un po' la mia fissa, e quindi c'è molto di tutto questo. E quando ti dico, appena finito l'intervista la gente mi chiede quanto ci ho messo a fare questo disco, io dico ci ho messo 6 mesi, ma probabilmente ci ho messo 20 anni, quindi perché erano cose che avevo dentro, e al nono disco ho pensato che fosse il caso di tirarle fuori e di confrontarmi con queste canzoni, cosa che in sé è molto difficile, perché sei un conto nella pigliare pezzi diciamo meno noti o meno famosi o minori, che poi minori non sono, ma comunque di grandi artisti, un conto andare a mettere le mani su dei grandi classici che se sbagli una virgola la gente ti spara in mezzo alla fronte, no? Quindi c'è anche una dose di follia in questo disco, ecco, questo sicuramente. Massimo, a parte questa Blowing in the Wind che ti ha dato proprio l'imprinting di rocker quando eri ragazzino, sì. Facendo una classifica, le due o tre canzoni di questo album alle quali proprio le senti più dentro? Bah, probabilmente Chimes of Freedom è la canzone più importante per me dentro lì, perché lo considero una poesia, una canzone straordinaria, ed è una delle poche canzoni di altri, cioè di Dylan in questo caso, che noi facciamo anche durante i concerti le canzoni. E non hai visto il gesto d'esultanza che ha fatto Maurizio? Ecco. Perché ho scelto anch'io questo pezzo da trasmettere, perché Chimes of Freedom è un pezzo, è il pezzo secondo me, cioè niente da fare, è il pezzo, basta. Sì, ma quello è un capolavoro assoluto. Noi spesso apriamo i concerti acustici con quella canzone che poi sfuma e diventa Nessuna Resa Mai, quindi è tutto quello che sono, è quello che sono, è quello che siamo, è quello di cui siamo figli, per cui metterci le mani è stata un'impresa difficile. Se poi andate a vedere bene, è fatto in due modi, c'è una prima parte, certo, di recitato, che è per valorizzare ancora di più la parte diciamo poetica della canzone, poi diventa un mezzo tempo rock abbastanza spinto, dove c'è molta energia, che è anche quella è una caratteristica del mio modo di fare musica. Quella canzone lì è la sintesi di quello che sono, ed è una canzone ovviamente straordinaria. Ci sono ovviamente grandissime canzoni in questo album. Child of Freedom probabilmente la prima, probabilmente anche la versione acustica che c'è di Promised Land vedo che piace moltissimo, ed è stata anche una canzone, è la prima volta dopo 19 anni che incido o faccio una canzone di Springsteen, visto che tanti anni, 20 anni fa mi avevano etichettato come la storia dello Springsteen italiano. Sì, perché avevi il produttore lì, di Steve, forse anche per quello. Sì, è vero, che è l'abbraccio destro, che è Vanzante. Però per quello io mi ero sempre rifiutato di fare i pezzi di Springsteen, fino a questo pezzo qui, che è comunque una dichiarazione d'amore anche per i grandi dischi che fece Springsteen, soprattutto nella seconda metà degli anni 70, c'è Born to Run, Darkness, da dove c'è Promised Land e The River, che è l'album poi che produsse Little Steven. Certo. E poi We Shall Overcome, che è anche secondo me un grande pezzo finale, che è un traditional, che è anche lì il senso di quello che siamo, è un canto di libertà principalmente, quindi questo è quello che sono, questo è quello che siamo e questo che è importante ripeterlo ogni tanto, e con, ti dico, usando le mie armi, quindi forza, energia, poesia, impatto emotivo e dando tutto come sempre. Certo, allora per dedicare un primo ascolto ai nostri radioascoltatori da questo splendido album, prendiamo proprio una delle canzoni che hai citato come tra le tue preferite, Chimes of Freedom, e Maurizio, andrei a sottolineare anche il fatto per il quale tu come redazione avevi scelto questa canzone. Sì, perché io ho scelto due pezzi come redazione. Chimes of Freedom perché? Perché innanzitutto è un pezzo rock al 100%, perché Massimo Priviero è un musicista rock al 100%, tutto da un pezzo. E poi mi ricordavo anche la versione del Boss, era una versione straordinaria. Vero. E ho collegato le due cose, Massimo, ho scelto Chimes of Freedom perché è un pezzo trascinante, è un pezzo, ripeto, è un pezzo, basta, secondo me. Ascoltiamo Chimes of Freedom dall'album di Massimo Priviero, Rock and Poems. Rockway, l'onda del rock. Well, far between sundown's finished, a midnight's broken toll. We ducked inside the doorway, thunder crashing. As majestic bells of bolts struck shadows in the sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing, flashing for the warriors whose strength is not. Flashing for the refugees on their unarmed road of flight, and for each and every underdog soldier in the night. We gazed upon the chimes of freedom flashing. Well, in the sea of melted ferns, unexpectedly faces hidden here while the walls were tightening. As the echo of the wedding bells before the glowing rain dissolved into the wild blaze of lightning. Constantly at stake, and we give reaching. Calling for the searching ones on the speechless seeking terrain. Full and some hearted lovers weep to personality. As I recall when we were caught, trapped by no track of hours for the hands suspended. As we listened one last time and we watched with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. Tolling for the aching ones whose wounds cannot be nursed, for the countless confused accused, misused, strung out ones and worse, and for every hung-up person in the worldwide universe. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. L'onda del rock. Davvero molto molto rock questa puntata di Anteprima Rockwave con protagonista Massimo Priviero, del quale abbiamo appena ascoltato Chimes of Freedom dal nuovo album Rock and Poems, ed è in collegamento telefonico con noi. Massimo, non si può tagliare questo pezzo, fino all'ultima goccia deve essere. Giusto, è giusto, è giusto. Fino all'ultima goccia. Il mio sogno di vederti qua con una Fender e suonarlo qua dal vivo davanti a noi. Ci vuole anche un basso, una batteria, un pianoforte. Sì, chiaramente, però se... Vuoi venire, guarda, sabato facciamo, adesso non so come... Siamo al Tenco, no? A fare la... Sono l'ospite a fare la serata finale del Tenco. Cosa presenterai al Tenco? Dove andare in acustico, perché faremo, sai che in dolce residenza avevamo rifatto. Sì, certo. Ciao amore, ciao, e andremo a fare la strada del Davai. Bene. Facciamo un omaggio anche alla una canzone che era fatta nella lingua nostra comune, cioè che è una canzone fatta in Veneto, se forse ti ricordi. Però, sì. Sarebbe bello andare lì all'Ariston a ribaltarli tutti. Solo che non me lo fanno fare, capito? Bastardoni, comunque. Bastardoni in senso di affetto. Sì, perché, certo, sempre di senso di affetto. Comunque, spero di sì, spero che ci sia l'occasione. Poi in realtà riusciamo a dare energia anche spesso in acustico. Ma certamente, anche certamente. Che facciamo, ti assicuro che sono molto pochi italiani, tra virgolette, nel senso che sono molto carichi di forza, di poesia, di emozione, cioè riusciamo a spingere molto e quindi riusciamo spesso a dare emozione ugualmente. Quindi magari è più semplice che veniamo lì in duo, in trio, vengo da solo. Ma poi non c'è problema, con te non ci sono problemi con te, puoi venire anche da solo, puoi fare 2 ore di concerto senza nessun problema qua dentro. Assolutamente. Per te le porte sono sempre aperte. Chiaramente. No, vi ringrazio per la gentilezza. Vabbè, comunque, l'album è un album particolare, penso che l'abbiate capito perfettamente. Noi siamo... Ti dico la verità, adesso a cuore aperto non so neanche come cavolo gestirlo, cioè sono abbastanza senza armi, perché non è, sai, un album tuo nuovo, se uno dice ok, ci sono degli step promozionali, fai un tour, fai questo, quell'altro, per Dolce Vicenza abbiamo fatto 35 concerti, cioè abbiamo fatto un percorso normale, l'album è andato anche bene. Su questo disco qui non so, vi confesso che non so cosa cavolo fare, nel senso che non ho idea di come promuoverlo, di se portarlo in giro, se farlo diventare solo una cosa più così, un omaggio, non lo so. E quindi adesso quelli che mi stanno sentendo sanno in diretta che io non ho idea, al di là di quello che farà l'universo, che farà la gente che lavora con me. Personalmente, se uno mi chiede cosa farai, che è la domanda che poi si fa, cosa farai di questo disco, io, la risposta è non lo so e non ne ho la più pallida idea, spero di capirlo entro a breve, se no sono problemi. Massimo, se tu avessi dovuto inserire, a parte i tuoi due brani, i brani tuoi che hai inserito con la traduzione in inglese, sì, un brano di un altro artista italiano, che canzone ti sarebbe piaciuto inserire? Italiano, ma non credo che gli artisti che in un album di musica diciamo americana 60-70 c'entrassero canzoni italiane. Ci sono molti artisti americani che avrei voluto mettere dentro e che erano pronti, avevano pronte versioni di Neil Young, di Jackson Browne, di Nick Drake, di Stones, quindi diciamo anglo-americani, però c'era di Elvis, c'era ovviamente c'è il mondo che potevi tirare dentro. Italiani non lo so, io ho sempre avuto, ho sempre confessato di aver avuto grande ammirazione per alcuni cantautori italiani, ma non sicuramente in chiave rock, non mi interessa il rock che si fa in Italia, mi sembra interessato poco, quindi se ti dicessi domani piglia in mano la chitarra e fai una canzone di un italiano, io farei di Andrea, capisci? Voglio dire, non farei certo altre cose. La mia ammirazione va nei confronti di alcuni grandi cantautori in Italia, soprattutto, che sono, se vuoi, nel pensiero comune molto poco rock, comunque certo, molto più lontani rispetto alla musica che faccio io. Quindi ecco, farei Fabrizio sicuramente, magari una versione rock di un pezzo di Fabrizio. Ecco, sì. Bene. Allora, preparandoci a un altro assaggio del tuo album, la scelta di Maurizio è andata su The Sound of Silence. E ti spiego il perché, sì. Massimo, perché volevo sentire il lato più gentile, più delicato da parte, sì, tua. E questo è il motivo, ho scelto The Sound of Silence, voglio scegliere qualche altro, però The Sound of Silence perché fa parte della mia generazione come della tua. Certo. Un pezzo epocale che tu hai ripreso, hai riproposto nella tua chiave personalissima, ed è giusto che sia così. Sì, perché io credo che sia una delle più grandi canzoni che sia stata scritta, ed è una delle canzoni a cui ero molto legato quando avevo 20 anni, quando ero ragazzo che giravo, era una delle canzoni che suonavo più spesso, anche quando giravo l'Europa, suonavo nel metropolitano, queste cose qui, o quando giravo per strada di Padova, visto, ecco, che sì, ho vissuto un anno lì, quindi, come studente, esatto, per cui quando vivevo al Portello in un anno da fuori ho fatto il disastro e poi ho dovuto cambiare, ma questo è un altro discorso, ma è una canzone speciale, secondo me. È strano perché normalmente non è apparentemente sulle mie corde, ma ho voluto proprio tirar fuori, dandogli un po' di grinta in più, come puoi immaginare, certo, però mantenere la dolcezza e la magia che aveva quella canzone. Benissimo, ci andiamo ad ascoltare The Sound of Silence nella versione di Massimo Priviero. Il rock di V-Radio. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, Beneath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one there disturb the sound of silence. Was it I? You don't know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and decoded in the winds of silence. Bowed and prayed to the neon god they made, and the sun flashed out its warning in the words that it was for me, and the signs and the words of the prophets are written on subway walls and tenement halls and whispered sounds. Silence. Rockwave, l'onda del rock. Ed abbiamo appena ascoltato la versione di Massimo Priviero di The Sound of Silence, contenuta nel suo nuovo album Rock and Poems. Come tu hai detto giustamente, Massimo, nella presentazione, è una ballata geniale nella sua malinconia e nella sua apparente fragilità. Sì, sì, credo di sì. È un colpo di genio che ha avuto Paul Simon. Tra i tanti che ebbe Paul Simon in quegli anni, e poi è diventata anche la colonna sonora, il pezzo più importante della colonna sonora del laureato. Certo, certo. Al di là di questo, è una canzone che ha un gancio continuo e non ha in realtà un inciso, perché è costruita in maniera strana, anche un po' stramba, però geniale nella sua stranezza. È molto emozionante, secondo me. Quindi è stato bello ed è stato giusto rifarlo, anche se il mio timbro di voce non c'entra nulla con quello di Paul Simon. In quel caso lì la sfida, se vuoi, diventa più difficile, ma è anche più interessante, no? Ti scontri con una voce molto molto molto fine, no? Molto piccola, certo. E molto sempre lì sospesa, infatti lui e che addolciva ancora di più con Garfunkel, quindi è un certo un tipo di timbro totalmente diverso, però è più bello anche per quello, no? Perché se no dovrei fare delle cose. È più bello sfidare delle cose che sembrano apparentemente lontane da te, ma che in realtà non lo sono, e quindi è stato bello farlo. Da più soddisfazione, sicuramente. Sì, sì, sì. Allora, Massimo, per chiudere questa nostra chiacchierata attorno al tuo nuovo album, quale canzone vuoi far ascoltare ai nostri radioascoltatori? Se vuoi sentire una ballata ferma, molto particolare, sicuramente Promised Land è molto... È molto particolare perché... Cioè, siamo tutti in piedi, col boss. No, perché Springsteen poi, Bruce non l'aveva mai fatta, sì. In tante versioni non l'aveva mai fatta così. Io ho preso il mio pianista che suona con me, abbiamo fatto questa cosa così, molto molto scarna, molto anche sofferta, però secondo me molto... credo ben trovata, da quello che sento in giro, piace molto e... Penso anche agli springsteeniani, che sono dei fondamentalisti islamici fondamentalmente, sono dei miei fratelli ma sono degli islamici, hanno accolto con approvazione questa cosa, quindi se la proponete è una cosa da starci così un po' attento, un 4-5 minuti ed è una cosa fatta veramente con l'anima aperta e col cuore sgombro e con tutto quello che si può fare in una canzone, tutta l'emozione che si può mettere in una canzone. Benissimo Massimo, noi allora teniamo buona la tua mezza promessa, ecco, di esatto, venire qua in radio da più avanti per ascoltarti dal vivo in acustico. Live on the radio, promesso. Ecco, grazie Massimo. Grazie presto. Massimo, in bocca al lupo per questa nuova avventura. Ciao, grazie. Ciao Massimo, ciao. Ciao. Benissimo, Maurizio, prima di ascoltare questa canzone consigliataci direttamente dal cantante Massimo Priviero, dopo questa splendida puntata di Anteprima Rockwave, ora con Massimo Priviero e prima ancora con Cristina Donà, andiamo subito a dare ai nostri radioascoltatori i prossimi appuntamenti. Sì, mercoledì avremo Ska DJ. Chi è Ska DJ? Un ex pittura fresca, Marco Forieri. Musicista straordinario, un sax tenore decisamente incredibile. Provate ad ascoltare mercoledì prossimo, ore 22, in diretta dai nostri studi. Benissimo, allora noi andiamo a chiudere questa puntata proprio con la voce di Massimo Priviero dal suo nuovo album Rock and Poems con The Promised Land. On a rattlesnake speedway in the Utah desert, I pick up my money and head back in the town. Driving across the Waynesboro County line, I got the radio on and I'm just killing time. Working all day in my daddy's garage, driving all night, chasing sun mirage. Pretty soon, little girl, I'm gonna take charge. The dogs on me howl, cause they understand. If I could take one moment into my hands, Mr. Done my best to live the right way. I get up every morning and go to work each day. But your eyes go blind and your blood runs cold. Sometimes I feel so weak, I just wanna explode. Explode and tear this town apart. Take a knife and cut this pain from my heart. Find somebody itching for something to start. The dogs on Main Street howl, cause they understand. If I could reach one moment into my hands, Mr. Dark cloud rising from the desert floor. I pack my bags and I'm heading straight in the storm. Gonna be a twister that blow everything down. Then got the fate to stand its ground. Blow away the dreams that tear you apart. Blow away the dreams that break your heart. Blow away the lies that leave you nothing but lost and broken hearted. What if that's a mystery? Ogni sera di radio vi porta nel mondo del rock. Rockwave, l'onda del rock. Il lunedì heavy metal, il martedì con novità e recensioni, il mercoledì gruppi dal vivo in studio, il giovedì il rock più pop, il venerdì alternative rock. Cerca ogni sera il mondo del rock su di radio. Dalle 22 alle 24 c'è Rockwave, l'onda del rock.